Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La morte cambia ogni tipo di prospettiva nei confronti delle persone. C'è un meccanismo che scatta ogni volta che muore un grande personaggio. È umano, ma risibile, perché immediatamente si corre a ricordare la sua grandezza, si parla delle sue opere, della sua bravura, delle sue qualità. Era il migliore di tutti, i giornali decantano i meriti dello scomparso, tralasciano altri aspetti magari meno positivi, meno piacevoli, e quindi alla fine il nostro destino è di essere giudicati in maniera incompleta da vivi e di essere giudicati in maniera incompleta anche da morti. Così è successo anche per il nostro personaggio, che è Paolo Villaggio, scomparso il 3 luglio scorso, che è stato un grande, un grandissimo protagonista della nostra cultura popolare recente. È ricordato soprattutto per la sua creazione, diciamo, di maggiore impatto sul pubblico, il ragionier Fantozzi, quello che ha rappresentato così bene i difetti, le debolezze degli italiani, a partire probabilmente proprio dai difetti e dalle debolezze del creatore. Pensavo di scrivere delle cose divertenti e mi veniva fuori un personaggio terribile, squallido, cattivo, soprattutto in casa, servile, sfortunato, però è l'italiano medio, l'europeo medio, diciamo la verità. Cioè è quel 90, appartiene a quel 99% dei non riusciti in una cultura competitiva come quella che abbiamo ereditato oltreoceano dagli americani, che si sente non competitivo, ha paura di essere mediocre, allora diventa servile. Eh sì, queste sono veramente le parole di un grande, perché per parlare di Fantozzi bisogna, secondo me, scomodare grandi esempi, bisogna parlare di Kafka. Secondo me Fantozzi è la trasposizione italiana dei personaggi kafkiani. Qui ne parlava in un'intervista alla radio svizzera, e nel 99% degli italiani che lui citava sicuramente includeva anche se stesso, anche perché lui è uno che non ha mai nascosto i suoi difetti, ne ha parlato più di una volta, sempre con un tocco di ironia. Sentite questo scambio di battute con Vittoria Cabello nel 2013. Lei è stronzo? Sì, purtroppo, è quella una paura. Veramente? Beh, lo sono stato in certi momenti, è che mi sono liberato di un sacco di difetti. Vedete, invecchiate se ce la fate voi. Invecchiando, per esempio, si guarisce da una malattia grave che abbiamo soprattutto noi italiani, l'invidia. E io invidiavo quelli che fanno il mio mestiere, capito? Quando Renato Pozzetto, con mio amico, ha avuto con Beramare Ofelia un trionfo assoluto, sì. Io sinceramente ho, insomma, un po' di gastrite. No, una sofferenza vera, repressa. Invece devi assolutamente uscire di notte e dire: io sto invidiando, perché esorcizi, butti fuori, ti liberi assolutamente di questa autentica malattia. Era inevitabile che il successo di Fantozzi avrebbe oscurato tante altre cose fatte da Paolo Villaggio, avrebbe oscurato i premi ricevuti, la gavetta prima del successo televisivo, sarebbe stato ricordato lui per le disavventure dell'impiegato dell'ufficio Sinistri, sposato con la signora Pina, con la figlia più simile a una scimmia che a un essere umano, innamorato di questa collega bruttina e mediocre, cioè della signorina Silvia Vani. Però Paolo Villaggio è stato veramente molto, molto altro. È stato attore per registi come Fellini e Olmi, ha scritto delle canzoni bellissime con il suo amico e sodale Fabrizio De André, una tra tutte Carlo Martello, Ritorna dalla battaglia di Poitiers. È stato un grande innovatore dello stile dello show televisivo in Rai. Quelli di generazioni diverse dalla mia non possono ricordare l'impatto che ebbe un presentatore come Paolo Villaggio, che arrivava e per primo trattava male il pubblico, aveva un atteggiamento che fu uno shock per la televisione di metà anni 60. Io ero un bambino, ma ero abituato ai presentatori gentili che salutavano il pubblico, che amavano tutti. Ecco, Paolo Villaggio fece una rivoluzione, e l'altra grande rivoluzione la fece con il libro Fantozzi. Io mi ricordo la prima volta che lessi Fantozzi, avevo 13 anni, e urlavo ridendo da solo in casa, perché ero assolutamente travolto e traumatizzato da che cos'era Fantozzi in quel momento preciso. La vita di Paolo Villaggio però è stata segnata da tutti questi successi che noi gli invidiamo tanto per essere un po' come lui, ma è stata segnata anche da drammi privati, da grandi difficoltà personali. Paolo Villaggio nasce a Genova il 30 dicembre del 1932 insieme a un fratello gemello che è Piero, che ha avuto un destino completamente diverso, docente universitario, quindi il gemello serio, diciamo. Il padre era un ingegnere edile di origini palermitane, la madre Marta veneziana e insegnava la lingua tedesca. Lui vive, come tutti i nati in quegli anni, da bambino la Seconda Guerra Mondiale, frequenta la scuola elementare alla Diaz di Genova e per lui ovviamente la guerra è un ricordo vivido, perché quando hai 10 anni le cose te le ricordi, soprattutto quelle cose. Insomma, è un'esperienza che per lui è da ritenersi formativa. La guerra fu un incubo che si materializzò il 2 febbraio del 1941. A scuola, io e mio fratello gemello, sentivamo la lezione del maestro. A un certo punto avvertimmo sopra la testa come il rumore clamoroso di un treno. Era una salva da 381 mm che la Marina Britannica aveva sparato dal largo di Portofino. Solo che sbagliò bersaglio. La bomba centrò il quartiere dove eravamo tutti noi, devastando case e persone. Uscimmo io e mio fratello tenendoci per mano. Lo spettacolo era terribile. Vedemmo i cadaveri di 2 donne e un mulo morto. La notte non riuscimmo a prender sonno. Fu la prima volta che sentimmo nostro padre imprecare contro la guerra. La famiglia Villaggio è benestante, però questo non la mette al riparo dalle privazioni della guerra. Sono tempi difficili, molto difficili, con i ricordi che tutti gli italiani di quel tempo condividono: la tessera annonaria, il razionamento del cibo, lo sbarco anglo-americano, dopo i soldati stranieri nelle strade, il cibo in scatola, la Coca-Cola che arriva, poi finisce la guerra, la vita va avanti, il nostro protagonista va al liceo classico. A 16 anni nel 48 fa amicizia con un ragazzo genovese che ha un occhio pigro, è un adolescente molto problematico, si chiama Fabrizio De André. L'ho incontrato per la prima volta a Pocol, sopra Cortina. Io ero un ragazzino incazzato che parlava sporco. Gli piacevo perché ero tormentato, inquieto, e lui lo era altrettanto, solo che era più controllato, forse perché era più grande di me. Allora subito si investì della parte del fratello maggiore e mi diceva: guarda, tu le parolacce non le devi dire, tu dici le parolacce per essere al centro dell'attenzione, sei uno stronzo. Sono anni di scorribande, di serate passate tra amici nelle osterie della città, anzi più malfamate sono le osterie meglio è. Un'amicizia vera quella che nasce tra due persone diverse dalle altre, simili tra loro, cinici, disincantati, acuti, intelligenti, insomma due creativi. Racconterà lo stesso Villaggio di anni di vita dissennata, con i genitori molto preoccupati, giornate senza far niente, andando a letto tardi, svegliandosi nel pomeriggio. Sono le giornate di quella che io chiamerei post-adolescenza creativa. Le abbiamo passate in molti, quelle giornate lì, ma sono la base di quello che è successo dopo, e infatti è un periodo che cementerà questo rapporto. Più avanti diventerà anche un sodalizio artistico. Villaggio ricorda quel periodo in uno speciale andato in onda sulla Rai. Io ho una fetta di vita che è durata esattamente 34 anni, cioè la parte forse più creativa, più felice della mia vita e della sua vita, cioè la giovinezza spensierata, la mancanza di soldi. Di questa amicizia c'è anche una traccia artistica, perché all'inizio degli anni 60 Villaggio scrive i testi per 2 canzoni di De André, I Fannulloni e Carlo Martello Ritorna dalla battaglia di Poitiers, uno dei pezzi più cinici ma anche più divertenti di quel De André. E i due peraltro incorreranno anche in guai giudiziari, nella censura, perché era un brano insomma licenzioso, soprattutto per quei tempi. E dopo il liceo Villaggio si iscrive all'Università di Genova, giurisprudenza non porterà mai a termine. È una cosa che abbiamo in comune, giurisprudenza non portata a termine. E poi in realtà lui è troppo preso dal resto della sua vita, dagli amici, dalla passione per la Sampdoria. E poi c'è un richiamo ancora più forte, Londra. Si trasferisce lì in cerca di fortuna, di esperienze nella swinging London, inizia a lavorare, fa il cameriere. Poi c'è un'occasione importante che gli permette di affacciarsi nel mondo dello spettacolo, niente di che, però una chance col marchio BBC che lo prende come speaker per un breve periodo, e poi finisce sulle navi da crociera come intrattenitore, come cabarettista. È un'esperienza che lui condivide con il suo amico, con De André, che lui presenta al pubblico come Faber, soprannome che rimarrà. Nel corso dei 4 anni passati sulle navi, Villaggio incontrerà anche un pianista molto bravo, che si chiama Confalonieri, ma che accompagna un cantante con i capelli lunghi e una passione per le canzoni francesi. Questo capellone che ci sa fare a cantare si chiama Silvio Berlusconi. Siamo alla metà degli anni 50, Paolo Villaggio torna a Genova dopo queste esperienze e si unisce alla compagnia goliardica Mario Baistrocchi, una compagnia teatrale genovese di antica tradizione. Sono tutti non professionisti, ex studenti dell'università, non è un lavoro vero e proprio, certo non è un modo per guadagnare dei soldi, è la cosiddetta gavetta. E si mettono in scena spettacoli di satira, vengono bersagliati i politici locali, i politici nazionali, e per questa compagnia passano anche De André, Enzo Tortora e addirittura Carmelo Bene. E intanto siamo al 54 a Venezia, al Lido, Villaggio, che è poco più che ventenne, conosce Maura Albites, è la donna che diventerà poi sua moglie e gli darà 2 figli, Elisabetta del 59 e Pier Francesco del 65, un figlio col quale il nostro protagonista avrà un rapporto difficile, ne parleremo. Della relazione con la moglie Villaggio ha parlato in alcune interviste, ecco cosa ha raccontato in una di queste. Non esistono uomini fedeli, ma neanche donne. Dopo il matrimonio sono stato fedele una 15 anni, sempre però corteggiando le mogli degli amici, cercando anche di farlo capire, per vanità, perché ero uno con la patente di sfigato. Se potessi dare un consiglio a tutti gli adulteri, non cambiate mai moglie, fate una stronzata. Io ho avuto molti amici che l'hanno fatto, Tognazzi 6 mogli, Gassman 5, non migliora la vita. Castagna ha cambiato moglie, poi è andato a morire con la prima. Io sono felice solo con mia moglie. Dormo con lei, ho i figli, i nipoti, i cani con lei. È la sola donna che ho amato. E le nuove responsabilità familiari spingono Paolo a affiancare al teatro, che è la sua passione primaria, anche un lavoro vero, perché deve mantenere la famiglia. Viene assunto come impiegato in una grande industria, responsabile degli eventi aziendali. Tra i suoi compiti c'è quello di gestire lo scambio di doni natalizi tra dirigenti o le premiazioni dei dipendenti più meritevoli. Avete capito già, insomma, che da lì sta nascendo qualcosa. Per la scelta dell'impiegato che doveva accompagnare il mega direttore clamoroso, Duca Conte Piercarlo Ingegner Semenzara, a giocare a Monte Carlo, si tenne in sala mensa un tremendo sorteggione per il quale si riunì anche la commissione interna. Organizzatore della cerimonia, il ragionier Filini, dell'ufficio sinistri. Di certo gli anni da impiegato sono una vera ispirazione, e lui lì ha un patrimonio di volti, di abitudini, di vizi, di tic, e lui li osserva. Tutto questo darà vita a Fantozzi, lo ammetterà lui. Fantozzi in realtà si chiama Bianchi. Al tempo in cui l'ho conosciuto, il suo ufficio era collocato in un sottoscala. Sono stato insieme a lui per parecchi anni. Il mio primo incontro con lui si è svolto in una stanzetta, in questo sottoscala che gli avevano assegnato come ufficio. Quel giorno gli ho dato la mano dicendogli «Permette?» Lui si è alzato. Gli ho chiesto «Ma perché si alza?» E Bianchi Fantozzi «Credevo che volesse ballare». Nella seconda metà degli anni 60 Villaggio comincia a farsi notare sui palcoscenici di Genova, in particolare quello del teatro di Piazza Marsala, e poi c'è l'incontro della vita con Maurizio Costanzo. È lui, è Costanzo, che suggerisce a Villaggio di esibirsi a Roma al cabaret 7x8, che è un locale molto ben frequentato dalla gente dello spettacolo, dalle persone che potrebbero fargli fare un salto importante. Insomma, allo spettacolo di esordio di Villaggio ci sono personaggi come Tognazzi, Flaiano, Garinei e Giovannini, e poi c'è per Villaggio un passaggio obbligato in quegli anni, cioè il derby di Milano, dove si esibiscono tutti i comici sconosciuti che poi ripopoleranno la TV e il cinema nei decenni successivi. Lui fa amicizia, tra gli altri, con Cocchi Renato. Siamo nel 67, che è l'anno del suo debutto alla radio. La trasmissione è Il Sabato del Villaggio, dove racconta in prima persona le storie che riguardano uno strano impiegato. Da lì la strada si fa in discesa, perché lui è veramente diverso da tutti. Nel 68 c'è l'esordio televisivo di cui vi parlavo prima. È un programma della domenica pomeriggio, quelli della domenica. Gli autori sono Marchesi, Vaime e Terzoli, quindi tre giganti. Lo stile è veramente totalmente diverso dai conduttori dell'epoca. Lui sta in mezzo al pubblico, è in movimento, interagisce con gli spettatori in sala, li maltratta, li fa diventare protagonisti dello show. È stata veramente una rivoluzione. Senta, lei ha delle scarpe che hanno un'espressione quasi umana. Sì, se le cambi mi danno un po' fastidio. Trema, paura, Si pulisca le unghie, è chiaro? Lei ha il bottone mollato, lo sa? È chiaro che non la voglio così! Flessioni! Uno! Due! Uno! Due! Si flette male lei, eh? E lì lui comincia a proporre i suoi personaggi. La sua prima maschera è questo impiegato che è maltrattato, che è sottomesso di fronte ai mega direttori galattici, ed è insomma lo specchio di un'Italia. L'impiegato si chiama Gian Domenico Fracchia, che si mostra spavaldo prima di entrare dal direttore, quindi fa vedere ai suoi colleghi che lui entrerà e dirà chissà quali verità scomode. Poi, una volta introdotto dal direttore, che era il grandissimo Gianni Agus, lui si sfascia completamente e si siede sulla famosa poltrona, il puff, dal quale non riesce più a rialzarsi, quindi diventa grottesco, diventa servile, dice di sì, si intimidisce, le mani come due spugne, gli si intrecciano le dita. È un personaggio, io da bambino insomma spopolavo facendo appunto l'imitazione di Fracchia. E poi c'è un personaggio bellissimo, opposto, si chiama Kranz, il professor Kranz, che è un maldestro, prestigiatore, arrogante, ma assolutamente tenero nella sua maldestria, con un forte accento tedesco, con un atteggiamento autoritario. Nascono i tormentoni. Quello, allora, chi viene voi adesso? Cioè, chi viene, arriva, insomma, entra questo chi viene voi adesso nel lessico di quel periodo. Viene io, viene Kranz. A lei non piace quello che faccio io? Primo gioco che io faccio è questo qui di coda. Scusi lei, come si possono vedere? Così questa? E i codi che io faccio? 1, 2, 3 e si forma. Questo è bello. È bello che si forma. Questo è bello. E si forma un nodo. Basta? Pronti? 1, 2, 3 Ecco. Si dovrebbe formare un nodo. Ebbene, sono cose meravigliose. Nella prima trasmissione televisiva c'è già Fantozzi, che non è interpretato dall'attore, ma solo raccontato in terza persona in alcuni monologhi che poi saranno la base del suo libro. Il successo del programma arriva subito, c'è un attimo di spiazzamento del pubblico televisivo, che era abituato a altri tipi di conduzione, e poi è l'innamoramento tra lui e il pubblico, un innamoramento che non finirà mai. È l'inizio per lui di una presenza televisiva costante. Viene attorniato da nomi come Cocchi Renato, Oreste Lionello, il Quartetto Cetra. Tra le altre cose, lui conduce È Domenica ma senza impegno, e poi arriva Canzonissima, anche se lui continua a fare anche alla radio Il Sabato del Villaggio e anche Formula 1, dove lui intervisterà i protagonisti della musica italiana. Insomma, gli anni 60 finiscono alla grande per Villaggio, che è pronto per sbarcare nelle librerie e al cinema. Stiamo ricordando e raccontando Paolo Villaggio, cercando di non cadere nella trappola della retorica. Stiamo raccontando di un grandissimo artista, un rivoluzionario, ma anche un uomo che ha sempre evidenziato le proprie debolezze, forse le ha anche esagerate in molte interviste, le ha usate sicuramente come spunto per creare i suoi personaggi, a partire dal mitico Fantozzi, così italiano, così pieno di vizi, così capace di farci ridere di noi stessi. Paolo Villaggio con Fantozzi è entrato nel lessico comune e l'aggettivo fantozziano è diventato di uso corrente. Le espressioni di quel mondo di impiegati frustrati, delle vittime dei potenti, sono diventate frasi che ci hanno accompagnato nella nostra vita. Ma noi stiamo parlando anche di un grandissimo innovatore televisivo, di un grande attore, di un collaboratore di giornali importanti. Insomma, non si può ridurre la presenza in questa terra di Paolo Villaggio al solo Fantozzi. Alla fine degli anni 60 lui comincia a cimentarsi nel cinema, la prima volta è nel 68, è un film surreale, Eat It, che non è un capolavoro. Poi l'anno dopo gira un film western con Montesano, Lionello e Toffolo, I Quattro del Paternoster, e poi arrivano proposte invece per pellicole più significative, grazie anche al suo rapporto con Vittorio Gassman, un altro dei suoi grandi amici. Ma Gassman è il mattatore dell'epoca, lo vuole con sé per il seguito dell'Armata Brancaleone di Monicelli. Il ruolo di Villaggio è quello dell'antagonista di Gassman, il soldato alemanno Torz. Il film di Monicelli segnerà l'inizio di una sodalizia, di un'amicizia, ma anche di una coppia artistica che durerà altri due anni al cinema, alla televisione. Per esempio c'è un bellissimo film che si chiama Senza famiglia, nulla tenenti cercano affetto, con la regia di Gassman. E poi Che c'entriamo noi con la rivoluzione, diretti da Sergio Corbucci, un mix strano tra commedia e tragedia. Ma non eri morto allora? Era tutta una scena. Non eri morto. Me volevi fregare il finale. No, niente, il finale invece è tutto mio, sa. Questa è la più bella morte di Guido, Guido, guarda. E mentre sta consolidando la sua presenza nel mondo del cinema, una presenza che durerà per tutta la vita, lui sta scrivendo per l'Europeo, racconta le avventure, cioè le disavventure del ragionier Fantozzi. Insomma, un personaggio che sta nascendo, si sta formando, si sta componendo nel tempo, racconto dopo racconto, con dei coprotagonisti che stanno prendendo piede: la signorina Silvani, la moglie, la signora Pina, il collega Filini, il collega Calboni, così diverso, quello, lo sborone direbbero a Bologna, quello che in qualche modo dice di saperci fare con le donne. E poi ci sono i grandi, il mega direttore Galatico, il Duca, Conte, Maria Rita, Vittorio Balabam. Insomma, è tempo di pubblicare un libro. Nel 71 questi racconti diventano un libro che si chiama Fantozzi, pubblicato da Rizzoli. Questo libro irrompe nelle librerie, nelle vite, nelle case degli italiani. È un boom incredibile, ma un boom non solo di vendite, stiamo parlando di 1 milione di copie vendute, è un boom di pensiero, di modo di parlare, di modo di scherzare tra i banchi di scuola. È un libro che ha cambiato la vita di quelli della mia generazione. Il libro verrà tradotto in molte lingue, diventa un culto in Unione Sovietica, in Francia. In una vecchia intervista dell'Istituto Luce, un giovane Villaggio parla così della genesi della sua creatura. Dato che le mie esperienze erano solo limitate a una mega società nella quale io per anni, le dico verità, ho sofferto, ho sputato sangue, è drammatico, guardi, fare la vita dell'impiegato. Quindi avevo da dire qualcosa e le ho dette in una maniera un po' particolare. Cioè, non è che io abbia fatto dell'umorismo, molti dicono ma lui è un comico, no, assolutamente, io ho raccontato delle verità vere, drammatiche. E ne arriveranno tanti di libri di Fantozzi, ma andiamo con ordine. Nel 73 lui lavora ancora per il cinema con Nanni Loi alla regia, il film è Sistemo l'America e torno. Poi c'è l'amico Marco Ferreri che lo chiama con una pellicola che è non toccare la donna bianca, e dove lui recita con dei numeri uno: Mastroianni, Tognazzi, Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Philippe Noiret. Ma è evidente che il successo letterario del libro di Fantozzi e del secondo, il secondo tragico Fantozzi, sta per esplodere anche al cinema. È inevitabile. Nel 74 arriva la decisione di fare un film. Si racconta che Villaggio non fosse convinto di interpretare il suo personaggio, che il ruolo fosse stato offerto a Ugo Tognazzi e a Pozzetto, e che dopo il rifiuto di entrambi si dice che Villaggio si convinse, e insomma in realtà solo Villaggio poteva fare quel ruolo. Per la parte della moglie, Pina, viene scelta prima Liu Bosisio, poi dal terzo film in poi arriva Milena Vukotic, mentre il sogno proibito del ragionier Fantozzi è la signorina Silvani, che verrà interpretata da una gigantesca Anna Mazzamauro, amica nostra e di questa trasmissione. E il provino per la signorina Silvani ce l'ha raccontato lei stessa. Quella mattina mi sono vestita come se via col vento, lei quando va all'appuntamento corretto e non c'è la lira si mette le tende, io mi sono messa una tovaglia di pizzo, mi sono messa un cappello, ho alzato i tacchi per alzare il culo, insomma mi sono vestita come per una protagonista. Allora apro la porta della produzione e apro, spalanco le braccia come per dire a Lucia Assalce, ecco la protagonista del tuo film. Salce mi guarda un po' meravigliato, un po' divertito, un po' preoccupato, e mi dice: Anna, scusa, io ti ricordavo più brutta, ha detto a Paolo Villaggio, ma guarda, per la moglie no, ma c'è la Silvani. E io: chi è Silvani? È come la donna dei sogni di Fantozzi. È tua. Il 27 marzo del 75 Ugo Fantozzi arriva nelle sale italiane, rimane in prima visione per 8 mesi, incassa 6 miliardi di lire, la critica rimane divisa naturalmente. Fantozzi ragionier Ugo, matricola 1001 Barabis dell'ufficio sinistri. E il personaggio di Fantozzi alla fine sarà protagonista di 10 film, l'ultimo del 99, Fantozzi 2000, la clonazione. Mi viene da parlare così e non c'è niente da fare. Fantozzi 2000, la clonazione. La regia passerà da Luciano Salce a Neri Parenti, che si sta consolidando nel genere film di Natale, insomma con una vocazione un po' più commerciale. È inevitabile in questi casi che i primi film siano più belli e profondi degli ultimi. E durante la lavorazione di Fantozzi alla riscossa, che è il settimo film, Villaggio spiega le ragioni della reiterazione del personaggio. Il mio mestiere è fare dei film di successo commerciale, di box office, come dicono gli addetti ai lavori. Fantozzi ha una sicura etichetta, una sicura garanzia per fare un successo natalizio, una specie di panettone natalizio, no? Che sono, molti mi domandano, ma ancora Fantozzi? Ma più che mai, non so. Adesso con le dovute distanze, dovutissime, Totò ha fatto tutto tutta la vita, e non gli domandavano, ma Totò, ma lei fa ancora tutto, cosa volevi che facesse? Eh sì, è così, è andata. È chiaro che però il rovescio della medaglia è che un po' sono stati dimenticati altri personaggi e altri fatti, altre gesta che ha fatto Paolo Villaggio, per esempio le collaborazioni con i grandi registi, il cinema d'autore. Nel 75 Pupi Avati lo vuole per La Mazzurca del Barone della Santa e del Fico Fiorone assieme a Tognazzi, partecipa a film di successo, anche film a episodi magari di calatura lievemente inferiore, Di che segno sei, Tre tigri contro tre tigri, e nel 76 Comencini lo chiama per un altro film corale, Signore e signori buonanotte. Non riusciremo a ricordare adesso tutti i film di Paolo Villaggio, ne ha girati un'ottantina, commedie con importanti eccezioni. Negli anni 80 lui si affianca a Neri Parenti per il periodo, diciamo, del genere panettone natalizio, successo garantito al botteghino in coppia con gente come Boldi, De Sica, Teocoli, Gigi Andrea, al periodo dei pompieri, di Scuola di Ladri, film corali come Grandi Magazzini e Rimini Rimini, con tanti attori, diciamo, di successo garantito, c'è anche Celentano, Montesano, e lui sta lavorando tantissimo, insegue il successo, anzi in realtà lo raggiunge, ma vuole mantenerlo, vuole sempre di più. È uno stile di vita che avrà delle ripercussioni sulla sua vita familiare, in particolare sul suo rapporto col figlio più piccolo, Pier Francesco. La carriera di Paolo Villaggio è stata lunga, ricchissima tra cinema, televisione e scrittura. Dalla fine degli anni 60 a tutti gli anni 90 ha lavorato senza sosta. È uno schema di vita particolare che nel caso del nostro protagonista ha complicato e non poco i rapporti con i figli, soprattutto col minore Pier Francesco, detto Piero. Eh sì, perché mentre la carriera di Villaggio raggiunge l'apice, Piero cade nella droga, diventa tossicodipendente da eroina. Lo diciamo perché lo ha detto lui in alcune interviste, in un libro recente, ha raccontato le sue difficoltà con quel padre così ingombrante. Sentiamolo in un'intervista a Roxy Bar Red Ronnie. L'unica vera colpa, se così si può dire, che faccio a mio padre è che in un momento particolare della mia vita di crescita, come tutti i bambini, non c'era, era assente. Ecco, questo, io ho sofferto la sua assenza, ho sofferto la mancanza di una guida, diciamo così, anche di un controllo. Noi abitavamo in un appartamento di 100 metri quadri scarsi, eravamo in 5, cominciava ad essere un po' piccola per le esigenze di mio padre e allora presero una casa di fronte, sempre nello stesso comprensorio, e io e mia sorella praticamente a 12 anni vivevamo in un appartamento da soli. Ma torniamo al villaggio dei film e della TV. Gli anni 80 sono gli sgoccioli e lui torna spesso in televisione. Dall'85 è nella scuderia dei grandi artisti Fininvest, lavora a Risatissima, Grand Hotel, conduce Che piacere averti qui, che peraltro è la trasmissione che segna l'esordio da autori dei ragazzi della Jalapas Band. Nel 90 cambia qualcosa, esce Le voci della luna di Federico Fellini e la strana scelta di Fellini è sui due protagonisti, uno è Roberto Benigni e l'altro è lui, Paolo Villaggio, e a chi gliene chiede conto Fellini risponde così: Benigni e Villaggio sono due ricchezze ignorate e trascurate. Ignorarne il potenziale mi sembra una delle tante colpe che si possono imputare ai nostri produttori. È l'inizio di una frequentazione del cinema d'autore per Villaggio, che per il ruolo nella Voce della Luna riceve il David di Donatello ex aequo con Gianmaria Volonté per Porte Aperte. Il cinema d'autore si è accorto di lui. Nel 92 la Vermüller lo sceglie per la parte del maestro in un bellissimo film, Io speriamo che me la cavo, tratto dal libro omonimo. L'anno dopo Ermanno Olmi lo vuole nel Segreto del Bosco Vecchio, dal libro di Dino Buzzati, ed è un altro nastro d'argento che arriva. Monicelli poi lo sceglie per un altro film che vi consiglio, Cari fottutissimi amici, presentato nel 94 al Festival di Berlino. Insomma, la faccia triste, così particolare di Villaggio non serve solo a far ridere, anche se è vero che la partecipazione a questi film è solo una deviazione dal filone principale, quello della comicità più facile, alla portata di tutti, però lui tante volte tornerà al cinema d'autore, riuscirà a tornare al cinema d'autore, perché a volte quando sei segnato come eroe dei film di Natale, poi i grandi registi non ti vogliono, e invece lui lavorerà ancora con Salvatores, con Leone Pompucci in un altro grandissimo film che è Camerieri, con Diego Batantuono, con grandi attori, un film che vi straconsiglio. E poi con Pozzetto all'inizio degli anni 90 dà vita a un duo comico che dura tre film, e insomma qua invece torniamo all'approccio più semplice, quello anche probabilmente più remunerativo. Il ciclo è Le Comiche, regia di Neri Parenti, grandi successi al botteghino, riferimenti espliciti alla grande stagione del cinema muto, quello di Loren e Hardy, di Stanley Olio, dei fratelli Marx. Pozzetto e Villaggio si conoscono dai tempi degli esordi in Rai, fino a quel momento non avevano mai lavorato assieme. Lì arrivano i grandi guadagni. Per non lasciare niente di inesplorato, si dedica anche al doppiaggio, presta la voce ai Pensieri di un bambino, protagonista del film Senti chi parla e dei sequel, e nel secondo episodio peraltro ci sono altri doppiatori famosi come la Mazza Mauro e come Lino Banfi. Senti Eddie, ricapitoliamo tutta questa vicenda del vasetto. Beh, devi prendere il controllo della situazione in meno. In altre parole? No, insomma, devi dire: uè, pipì, tu stai dentro fettendo una. E non ti muovere finché non te lo dico io, ecco. La pipì mi ascolta? Se non ti ascolti, pisci addosso. La vita di villaggio è caratterizzata da questo continuare a ondeggiare tra i momenti nei quali palesemente si pensa a fare cassa e dei momenti invece nei quali si vuole lasciare un ricordo. Insomma, è un, come dire, un dualismo che molti artisti conoscono. Per esempio, nel 96 lui torna in teatro e porta in scena L'avaro di Molière, diretto da Strehler con Ottavia Piccolo. E negli anni 2000 c'è l'abbandono definitivo del genere comico e del personaggio di Fantozzi. L'età avanza, il fisico è appesantito perché lui ha una debolezza patologica per il cibo e lui è bulimico. Intanto ha sviluppato anche il diabete, ha scompensi cardiaci, ha problemi di pressione, insomma non si è risparmiato nella vita, soprattutto a tavola, continua a lavorare. Diminuisce la sua attività di attore preferendo la scrittura. È un momento di riflessione sulla sua vita e succede quando si va un po' avanti negli anni. Nel 2002 si racconta in teatro in Delirio di un povero vecchio e poi pubblica una sua autobiografia con un titolo meraviglioso: Vita, morte e miracoli di un pezzo di merda. E parla della sua giovinezza, del fratello gemello, dei problemi di droga, del figlio. Nel 2008 vince il premio Flaiano, peraltro l'abbiamo vinto anche noi il premio Flaiano col Falco e il Gabbiano, ma questo non c'entra. Vince nella sezione satira con Storia della libertà di pensiero, in cui racconta a modo suo, ma veramente a modo suo, io l'ho letto questo libro, è divertente, è un modo di rileggere la storia dalla Grecia antica ai tempi moderni. L'ultima apparizione importante di Villaggio al cinema è del 2008, il film di Francesca Archibugi è Questioni di cuore. Nel 2017, a pochi mesi dalla morte, è nel film di Valerio Zanoli Viva gli sposi. In televisione mette la sua recitazione un po' stralunata nella fiction di Mediaset Carabinieri e la mette per ben 7 stagioni. Poi diventa sempre più raro vederlo in TV, sono soprattutto delle ospitate per promuovere i suoi libri che sforna a ritmo serratissimo. La sua ultima apparizione televisiva è dell'aprile 2017 a Matrix. Si parla di Steno, del grande Stefano Vanzina. La mente è lucida, il fisico sembra molto provato. Infatti 3 mesi dopo il Villaggio muore, l'alba del 3 luglio, muore per le conseguenze di quel diabete che lui non aveva mai curato seriamente. Ho fatto i film di Fellini, ho vinto un Leone d'Oro, ho fatto i film di Olmi, ho fatto i film di Monicelli, ho fatto dei film importanti con i quali poi mi hanno premiato, perciò c'è tutta una morale in Italia, soprattutto cattolica, per la quale il comico è considerato un personaggio di seconda classe. Io trovo che non è servito a niente poi, tranne prendere i premi, il Leone d'Oro a Venezia, l'Orso a Berlino per Monicelli, si chiamava Carifo, tuttissimi amici. Io sarò ricordato solo per un'invenzione, cioè quell'italiano Fantozzi, libro e film, e quello resta, e mi basta. Molte persone nella loro vita hanno volato in alto, hanno fatto cose che hanno lasciato un segno. I segni di Paolo Villaggio rimangono nella cultura di questo paese, nel costume di questo paese, sono colpi d'ala di un uomo imperfetto che ha saputo giocare sulle sue imperfezioni con il cinismo, perché il cinismo è una dote fondamentale degli artisti. Bisogna averne in dosi limitate, ma bisogna averlo, e Paolo Villaggio possedeva anche quello, oltre a una meravigliosa intelligenza. E lui, consapevole di essere imperfetto, ha reso la sua imperfezione una forza creativa, e noi abbiamo voluto ricordarlo in questo modo. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, i miei, i nostri social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.